Europa 24. Bentrovati per questo nuovo appuntamento con Europa 24 che dedichiamo a un progetto internazionale chiamato Sunrise che vuole portare internet in mare. Un progetto che è inserito nel 7° programma quadro dell'Unione Europea e che ha un capofila italiano, che è l'Università La Sapienza di Roma, dove presso il Dipartimento di Informatica insegna Chiara Petrioli, che è la coordinatrice del progetto. Un primo obiettivo è quello di sviluppare le tecnologie per rendere possibile il fatto di portare il concetto dell'internet in acqua, nel mondo marino, permettere di interconnettere dispositivi che stiamo contribuendo a creare, nodi sensori, robot che possono monitorare i nostri mari, i nostri oceani, e che lo possono fare molto meglio, in maniera più efficiente, sostituendo l'uomo e portandoci a conoscere realtà attualmente misteriose, facendo rete e creando dei team di robot, veicoli e di sensori che possono monitorare i nostri mari. Questi team devono poi essere interconnessi, diciamo, alla rete internet. Quindi il primo obiettivo è quello di sviluppare le tecnologie per rendere possibile questo paradigma. Secondo obiettivo è poi quello di realizzare delle infrastrutture per la sperimentazione e il test dell'Internet of Underwater Things, e quindi federare una serie di infrastrutture per il test di nuove soluzioni che sono attualmente alla frontiera delle infrastrutture tecnologiche che abbiamo a livello mondo. E quindi ci sono 5 facility di test in cui possiamo andare a sperimentare nuovi protocolli, nuove tecnologie, nuovi sensori, nuovi IUV, nuovi robot sottomarini, e che sono interconnessi fra loro, possono essere accedute da remoto tramite internet, e quindi siamo in grado di testare le soluzioni in ambienti marini e scenari applicativi diversi. E questo è molto importante perché, diversamente da quello che accade nel mondo terrestre, per esempio comunicare in cosiddetto deep water, non so, in una rete diciamo che si trova a 3000 metri nel Baltico o in un lago o diciamo nel Mediterraneo, è molto diverso. Si utilizzano dei mezzi di comunicazione differenti. Le reti ottiche possono essere utilizzate, non cablate, possono essere utilizzate in alcuni scenari, ma raggiungono delle distanze limitate, e nella maggior parte dei casi bisogna utilizzare il mezzo di comunicazione che poi usano i mammiferi marini, ovvero la comunicazione tramite onde acustiche, che invece permettono di raggiungere vari chilometri, anche decine di chilometri. Quindi abbiamo una rete che ha caratteristiche completamente diverse rispetto a quello che conosciamo. Abbiamo poi un ambiente in cui anche semplicemente l'increspatura del mare dovuto all'alzarsi del vento può cambiare la capacità di trasmettere ad un determinato destinatario. Quindi abbiamo bisogno di sistemi che, per poter trasmettere affidabilmente le informazioni, devono essere in grado di riorganizzare il modo in cui questo venga a essere fatto, in qualche modo di imparare. Senta, se le chiedo degli utilizzi, perché ho letto che ad esempio si pensa ad applicazioni nel campo della coltivazione subacquea, ad esempio di alghe, ma per stare su utilizzi più vicino a noi? Sì, gli utilizzi sono direi molteplici, e uno degli obiettivi che ci stiamo dando è anche quello di sviluppare soluzioni che siano affidabili, robuste, a basso costo, in maniera tale da poter essere utilizzate in molti scenari applicativi. Facendo alcuni esempi, nell'ambito per esempio ambientale, sarebbe bello poter monitorare tutte le foci dei nostri fiumi e verificare in continuo se si verificano delle situazioni in cui c'è un allarme, per esempio l'industria sta sversando degli inquinanti, ci sono stati dei disastri ambientali dovuti alla produzione di per esempio petrolio in altre zone del mondo in passato, o dovuti a eventi come il naufragio della Costa Concordia. In tutti questi casi noi siamo in grado di intervenire rapidamente, avendo dei sistemi che danno un'evidenza quantitativa dell'impatto ambientale di fenomeni di questo tipo. Grazie a Chiara Petrioli dell'Università La Sapienza di Roma, da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.